Ciao a tutti! Il mio nome è Freya. Lavoro alla Luppi FM di Weiden, in Germania, ma sono originaria di Bamberg. Sono un'assistente amministrativa. Aiuto i tecnici preparando gli ordini di lavoro, rispondendo al telefono e inviando email. Gestisco anche i soldi dell'ufficio per le piccole cose di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Vivo vicino a Weiden con il mio fidanzato e i nostri due figli. Nel tempo libero mi piace giocare con i miei figli al parco. Mi piace anche fare giardinaggio. Quando ho un po' di tempo libero, mi piace leggere un buon giallo o guardare una serie TV appassionante. È un piacere conoscervi tutti